farà l'amore sempre come quelle prime volte. Alla vita indipendente fa capire quando conta, quanto conti veramente. E perdona solo il giusto, che altrimenti corre il rischio che non te ne freghi niente. E fa sempre giochi nuovi, fino a quando tu ti fidi, fino a quando è divertente. Sa chi sei, sa chi non sarai, non si aspetta un altro, non aspetta. Conta per davvero. La ragazza dei tuoi sogni, finché resta nei tuoi sogni, puoi cercare ancora in giro. Puoi cercare ancora in giro. Puoi cercare ancora in giro. Puoi cercare ancora in giro.